edizione. Le 6:12:05. Un paio di notizie arrivate poco fa o nella notte. Innanzitutto quella che arriva dal Giappone, dove ci arriva notizia di un deficit commerciale che arriva a record dal 1979 a 1480 miliardi di yen, ossia 14 miliardi di euro. A pesare è stato il super yen e i timori sulla crescita mondiale dopo la crisi, ovviamente, del debito sovrano europeo. In particolare il deficit con la Cina, primo partner nipponico, è volato al record di 587 miliardi di yen. Altre notizie notturne, una di cronaca arrivata da poco, che arriva dall'Ecuador, dove almeno 29 persone sono morte, altre 27 sono rimaste ferite in un incidente stradale. Un autobus è precipitato in un burrone e siamo nella provincia andina di Imbabura, nel nord del paese. E poi le parole del segretario al tesoro americano Timothy Geithner, che oltre a salutare con soddisfazione il piano di salvataggio della Grecia, nella speranza evidentemente che a questo punto l'Eurogruppo lo approvi, ma ne parleremo più avanti, invita il Fondo Monetario a sostenerlo. Si tratta di un pacchetto di riforme molto forte e molto difficile, ha bisogno del sostegno di tutta la comunità internazionale, scrive Geithner in una nota. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa sta succedendo su strade e autostrade, ci ritroviamo subito dopo e daremo un'occhiata, come sempre a quell'ora, alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Prima edizione. Le 6:15:17, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Andiamo dunque a vedere che cosa troviamo, su cosa aprono e quali temi scelgono i principali quotidiani italiani nella giornata di oggi. Iniziamo dalla Repubblica, che ha un'apertura dedicata ai prossimi passi del governo. Taglio delle tasse, Monti accelera, questo è il titolo. Domani pre-consiglio dei ministri, 5 miliardi e mezzo tolti agli evasori serviranno ad abbassare l'aliquota IRPEF ai redditi più bassi. È pronto un decreto, scrive Repubblica, mette nel titolo anche l'intesa sul lavoro e la CGIL che frena, e l'articolo 18 che divide il Partito Democratico. Naturalmente titolo dedicato anche alle vicende che riguardano Angela Merkel e la Germania, soprattutto, e la decisione di scegliere Joachim Gauck come presidente della Repubblica. Merkel dice sì a Gauck presidente e oggi l'Eurogruppo per salvare la Grecia. E a centropagina una foto del momento dell'arresto dei due marò accusati di aver ucciso due pescatori, indi arrestati due militari italiani, situazione tesa e grave, questo situazione tesa e grave tra virgolette. Il post Sanremo anche su Repubblica, si parla di Maria De Filippi, insomma, come sapete ha vinto a Sanremo una delle protagoniste delle stagioni passate di Amici di Maria De Filippi. Ebbene, Maria De Filippi lancia la sfida, scrive Repubblica, ora preparo il mio Sanremo. Altre due storie sempre dalla Repubblica, una storia raccontata da Giovanni Valentini, riguarda gli ordigni della guerra mondiale che giacciono ancora nei nostri mari, il titolo è quelle bombe chimiche ormai dimenticate che minacciano le città. E poi l'arrivo dell'autobiografia dell'uomo più veloce del mondo, la mia vita da Usain Bolt, così sono diventato il lampo, e viene riportata una parte del testo di questa autobiografia. Il Corriere della Sera apre con la vicenda dei due marò arrestati, i tre misteri del caso indiano, questo è il titolo, l'orario dell'incidente, la posizione della nave e l'ipotesi di un'altra imbarcazione coinvolta. New Delhi arresta i nostri marò che spararono ai pirati. Il rapporto della Marina è un racconto, un retroscena di Fiorenza Sarzanini, che racconta di un ordine inascoltato. Perché? Perché la Marina italiana aveva raccomandato, racconta Sarzanini, di non assecondare le richieste delle autorità indiane e di non far scendere a terra i nostri militari. Ora si tratta di capire chi sia stato a decidere di far entrare nel porto di Kochi la Enrica Lexi. A proposito del tema del mercato del lavoro, c'è un editoriale a firma, commento a firma di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, essere prudenti e poco saggio. Si parla del lavoro, della riforma tra Italia e Spagna. Per quanto riguarda Sanremo, invece, Corriere della Sera decide di parlare della scelta di Geppi Cucciari, la comica, di richiamare alla memoria Rossella Urro, la cooperante rapita in Algeria da più di 3 mesi. A Sanremo ricordata la volontaria ostaggio in Algeria. Il pezzo a firma di Maria Volpe ha vinto l'ironia di Geppi, l'appello per Rossella. Anche qua un titolo naturalmente sulla scelta della Merkel per la presidenza tedesca, sceglie Gauck, uomo dell'opposizione. E c'è da segnalare a proposito di politica economica il pezzo di Mario Sensini che parla dei debiti con il fisco. Ci saranno pignoramenti più leggeri. Per quanto riguarda il taglio basso, una sorta di richiamo all'attenzione su Carnevale, sulle vecchie maschere di Armando Torno. È Carnevale, ma Arlecchino non c'è, la scomparsa delle maschere storiche. Chi ricorda Gianduia e Meneghino? Si chiede Armando Torno. Veniamo al Messaggero, l'apertura è sul lavoro, il sindacato frena, oggi nuovo vertice, la CGIL dice presto per dire che c'è un'intesa, intanto il ministro Fornero incontra le parti sociali e l'articolo 18 divide il Partito Democratico. Titolo forte a centropagina con foto per il quotidiano romano naturalmente, sulla Roma, che la Roma torna in alto e la Lazio che crolla a Palermo, con una grande foto. A centropagina i due militari italiani fermati alla crisi diplomatica con l'India e un commento di Francesca Marino in prima pagina dal titolo Il fattore Sonia Gandhi. E si parla anche di ancora di Celentano e di Morandi, l'addio a Sanremo con il veleno, pilotati i fischi contro Celentano. Ma anche altra storia che arriva da Sanremo, appena concluso il festival, nel quadro di un'indagine per evasione fiscale e finanziaria hanno sequestrato lo yacht Villa sul Mare a bordo del quale si trovavano la conduttrice televisiva Paola Perego e il marito Lucio Presta. La barca non risulterebbe di proprietà della coppia, ma sarebbe stata noleggiata. Veniamo alla Stampa, arrestati due marò, tensione India-Italia, questo è il titolo di apertura della Stampa. Un editoriale in prima pagina, firma di Marcello Sorgi, ricorda i 100 giorni al governo di Monti, la cura Monti e il malessere dei partiti. E si parla anche dell'intesa sul lavoro e della Camusso che frena. C'è anche un titolo dedicato all'Eurogruppo. Nella Grecia stasera l'ultima chance per gli aiuti. L'Eurogruppo decide sul piano da 130 miliardi, ne arriva una stretta sul controllo del debito. C'è anche un retroscena a proposito della riforma del mercato del lavoro, scritto da Alessandro Barbera. Il titolo già di suo è molto chiaro. Adesso i sindacati temono il blitz di Palazzo Chigi. La candidatura bis, c'è un interessante, anche se vogliamo divertente, il titolo che riguarda Nicolas Sarkozy e la sua candidatura alla presidenza della Repubblica Francese, la sua ricandidatura. Il titolo sulla Stampa è Sarkozy a Marsiglia, la Francia sono io. C'è anche nella Stampa un'intervista al regista che da 10 anni mette scene classici del teatro nel carcere romano di Rebibbia, così ho fatto recitare i detenuti. Si parla del dietro le quinte del film dei Taviani. Tra poco vi faremo sentire l'intervista che ha realizzato il nostro Paolo Panceri con uno degli attori. Il Sole 24 Ore del lunedì, come sapete, è un numero freddo, però ci sono molte notizie interessanti. Tribunali tagliano 400.000 cause, questo è il titolo di apertura. In campo 40.000 conciliatori, nel primo anno di applicazione i risultati sono stati modesti. E poi uno schema interessante che riguarda i numeri, le nuove materie, 320.000, più di tre quarti delle liti che dovranno passare dalla mediazione riguardano le nuove materie, controversie su RC auto e condominio. E poi il bilancio, 80.000 è la stima del numero di cause iscritte presso gli organismi abilitati nei primi 12 mesi di mediazione. C'è anche una bella intervista al ministro dell'università Francesco Profumo. In università test e corsi di inglese per aprirci all'estero. Questo un'intervista firmata da Gianni Trovati. E ancora, in settimana le misure su semplificazione e antievasione, mini restyling per il contenzioso, contanti senza limiti per i turisti. Per gli acquisti degli stranieri sarà obbligatoria la fotocopia del passaporto. Dai giornali esteri vi vogliamo segnalare giusto un paio di cose. La prima arriva dal Telegraph, quindi dalla Gran Bretagna, riguarda Lloyds. Che cosa è successo? È successo che il gruppo bancario Lloyds, naturalmente, Lloyds ha deciso di sottrarre sostanzialmente ad alcuni suoi manager ed ex manager addirittura 1 milione di sterline di bonus. Questo perché? Per uno scandalo finanziario, perché si sono resi protagonisti di uno scandalo finanziario che è costato alla banca 3,2 miliardi di sterline nell'anno appena trascorso. Quindi che cosa ha deciso l'azienda? Ha deciso di rivalersi direttamente sui manager. L'altra cosa che vogliamo segnalare è questa inchiesta interessante del Washington Post, che arriva dalla cosiddetta Rust Belt, che è come dire la cintura dove si trova l'industria più pesante degli Stati Uniti. Per intenderci, è la zona intorno a Detroit, che non si esaurisce con Detroit, ma è la zona intorno a Detroit. E vi vogliamo segnalare questa inchiesta perché è un tema del quale si è parlato moltissimo anche in Italia. Che cosa racconta il Washington Post? Racconta che le aziende della zona sarebbero disposte ad assumere, al momento la disoccupazione in zona intorno al 9%, sarebbero anche disposte ad assumere, però il problema è che non si trova la manodopera specializzata, insomma, esattamente come succede in Italia. Adesso ci prendiamo una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo con il giornale radio. Prima edizione. 6:33 minuti e 58 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. È il 20 febbraio e l'Italia in diretta, Daniele Biacchessi. E c'è oggi un lungo viaggio d'Italia in controluce verso le prossime amministrative 2012. La puntata odierna è girata in Sicilia, reportage di Cristina Carpinelli. In Sicilia la tornata elettorale di maggio riguarderà molti piccoli comuni e almeno 4 grandi città: Palermo, Agrigento, Marsala e Trapani. La vera partita, anche per l'entusiasmo che si sta creando, è però a Palermo. La città è anche quella che versa nella peggiore situazione economica. Da quasi un mese non ha un sindaco ma un commissario straordinario, Luisa Latella. Il 17 gennaio l'allora sindaco del PDL, Diego Cammarata, rassegna le dimissioni ad appena 4 mesi dalla scadenza nazionale. Naturale. Me ne vado per un atto d'amore verso questa città, dirà. La realtà, invece, secondo i palermitani, è che la città è al collasso economico, a un passo dalla bancarotta. In tutta questa storia pesa il tracollo delle partecipate, come la municipalizzata Amia, l'azienda per i rifiuti con 18 milioni di debito, e l'Amat, la società dei trasporti. Ci lavorano 2.000 persone e il bilancio è in rosso con una perdita di 8 milioni di euro. Chi deve raccogliere i cocci è dunque soprattutto il PDL, che infatti sta facendo una campagna elettorale dai toni molto pacati e semplici. Enrico La Loggia è il coordinatore per Palermo. Ma stiamo intanto verificando tutte le possibili alleanze omogenee rispetto al centrodestra per poter esprimere candidature quanto più possibile vincenti. A Palermo ci sarà tanto da fare, soprattutto dopo Cammarata. Insomma, il PDL dovrà veramente fare un grosso lavoro per riprendersi la fiducia degli elettori. Sono molto ottimista. Insomma, chi governerà la città di Palermo avrà molto da fare. Prima di arrivare a capire chi saranno i candidati, bisognerà capire chi passerà le primarie. Le hanno indette sia nel PD che nel PDL e più o meno le date per votare sono vicine. Si parla della prima e della seconda settimana di marzo. Ma per il PD i giochi sono praticamente fatti, come ci racconta Giuseppe Lupo, segretario regionale del Partito Democratico. Possiamo vincere le elezioni con una candidatura forte, che noi sosteniamo, che è quella di Rita Borsellino, appunto per dare la svolta politica e amministrativa di cui la città ha bisogno. Noi peraltro proponiamo una candidata che è appunto Rita Borsellino, che è la migliore rappresentante che il centrosinistra potesse avere a Palermo, ma che è una candidata che aggrega anche consensi che vanno oltre il centrosinistra tradizionale, consensi che vengono dalla società civile organizzata, dai movimenti, dal mondo del volontariato, dall'elettorato cattolico. Cioè, quella di Rita è una candidatura sicuramente del centrosinistra, ma ha una grande capacità di espansione, di attrazione di consenso. Era Italia in controluce, prima edizione per quest'oggi 20 febbraio, torniamo oggi alle 13.30 naturalmente su Radio 24. Sono le 6, 37 minuti e 35 secondi e adesso, prima di parlare di Eurogruppo, prima di ascoltare l'intervista con uno degli attori del film dei italiani che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, ci occupiamo di calcio, lo facciamo con il nostro Dario Ceccarelli. Dario, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, naturalmente il tema è questo grande inseguimento continuo tra Milan e Juve che finalmente dovrebbe concludersi in questa settimana. Sì, è un ping pong avvincente, anche perché il Milan senza Ibrahimovic sembrava che potesse avere dei problemi, invece ha vinto brillantemente a Cesena e ha dimostrato di saper vivere bene anche senza Ibrahimovic. Poi ci sono alcuni particolari che rendono la vita del Milan più piacevole per i tifosi, per esempio Muntari, che è appena arrivato, segna, un ex interista che in un momento di crisi dell'Inter ovviamente fa diverte ai tifosi. Poi c'è Robinho, che finalmente ha trovato la strada del gol, che ultimamente segna sempre, e Manuelson, che anche lui va in rete per la prima volta. Quindi l'esame Ibrahimovic è stato importante, è superato, è importante ma non indispensabile. Quando non c'è lui si alza il livello del gioco collettivo e quindi la Juventus si preoccupa, perché certo. Quindi c'è anche una risposta senza Ibrahimovic. E anche un'altra cosa da dire è che si sta caricando un po' di peperoncino la sfida, perché subito Allegri ha mandato una stoccatina alla Juventus dicendo che il gol di Chiellini è meglio che l'abbiano dato, altrimenti chissà poi cosa sarebbe stato detto, e che a Ibrahimovic gol come quello di Chiellini a volte vengono non dati perché li fa di potenza, schiaccia l'avversario, eccetera eccetera. Quindi si stanno creando tutte quelle premesse per una sfida tutte. Senti, e poi ci sono le due romane a due facce, no? Sì, la Roma come sempre alterna belle cose, a volte più deludenti, però mi sembra che stia poco a poco, è un progetto che cresce lentamente, famoso progetto. Mentre la Lazio, vabbè, lì è successo di tutto, arrivavano da tutte le parti quelli del Palermo, devo dire che è stato veramente uno sbandamento totale, che speriamo per la Lazio che sia solamente un episodio. A volte succedono, però veramente sembrava così un'autostrada dove arrivavano tutti, e quindi così. Comunque direi che è un campionato che è divertente, adesso sì. Mi sembra che questo aspetto vada sottolineato, perché e tra l'altro ha una sfida ad altissimo livello tra due grandi come Milan e Juventus. Grazie al nostro Dario Ceccarelli e per questo nostro ormai quasi consueto commento del lunedì di campionato. Noi cambiamo argomento e andiamo a Bruxelles. Il premier greco Lucas Papademos è arrivato ieri in città per contatti in vista dell'Eurogruppo di questa sera, che dovrebbe dare il via libera definitivo, come sapete, al secondo pacchetto di aiuti da Atene, ad Atene, con il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano. Allora Beda, cosa pensi che emerga dal vertice? Credo che siamo in una situazione cruciale, credo che a questo punto l'Unione Europea deve decidere se aiutare la Grecia o meno, perché il tempo sta ormai per scadere. Il presidente Juncker, che è il presidente dell'Eurogruppo, ha fatto capire che questa riunione è l'ultima possibile riunione prima di una scadenza obbligazionaria, che è il 20 marzo, quando verranno a scadere 14 miliardi di euro. Entro quella data la Grecia deve avere denaro fresco per rimborsare questi titoli. Quindi la riunione di questa sera è certamente cruciale ed è molto indicativo che sia venuto nella capitale belga lo stesso primo ministro Lucas Papademos. Di solito all'Eurogruppo partecipa solamente il ministro delle finanze. La presenza di Papademos è indicativa, significa che il capo del governo greco vuole assolutamente essere presente a questa riunione per presentare ai partner europei il piano di austerità che è stato approvato recentemente dal governo greco, e soprattutto vuole convincerli dell'impegno del paese a rimettere ordine nella propria economia. Sì, quindi Beda è anche un modo per fare pressione sull'Europa. Direi proprio di sì, perché la Grecia a questo punto ha assolutamente bisogno del denaro. Il problema è doppio in un certo senso, non si tratta soltanto di rispettare alcune condizioni imposte dall'Eurogruppo nel corso degli ultimi giorni e delle ultime settimane. Dal punto di vista tecnico è probabile che il pacchetto messo a punto dai greci sia sufficiente e rispetti le condizioni pratiche dei ministri finanziari. C'è un aspetto molto più complicato, bisogna convincere i paesi più rigorosi, la Germania, l'Olanda, il Lussemburgo, la Finlandia, che ci si può fidare della Grecia, che i greci faranno il loro dovere per rimettere in ordine la loro economia. Ecco perché Lucas Papademos ha deciso di venire quest'oggi a Bruxelles, perché è convinto che la sua presenza durante l'Eurogruppo possa cambiare le carte in tavola e rassicurare i partner più dubbiosi. Grazie anche a Beda Romano per questo collegamento e per l'orario, naturalmente, anche perché sarà una giornata piuttosto intensa di lavoro per lui. Noi innanzitutto vi do una notizia che è appena arrivata, arriva dalla Cina. Un monaco buddista di 18 anni si è dato fuoco ed è morto nel sud-ovest della Cina, solo l'ultima delle autoimmolazioni di protesta contro la politica cinese in Tibet, a quanto pare la 26esima dallo scorso anno. La notizia è stata fornita naturalmente non dal governo cinese ma da un gruppo per i diritti umani. Noi adesso sentiamo che cosa sta succedendo. Mi dicono che non è pronto il collegamento con le autostrade, con i colleghi di Strada in diretta, per sentire come vanno le cose. Intanto vi do un'altra notizia, anche questa appena arrivata: i due marò italiani che si trovano in stato di custodia vigilata in attesa di essere presentati ad un giudice, come sapete, per l'imputazione di un omicidio, si trasferiranno nel pomeriggio da Kochi, dove sono sbarcati con la petroliera, a Kollam, distretto competente per l'incidente avvenuto in mare mercoledì. Naturalmente torneremo a parlare di questo nel corso del giornale radio. Adesso la viabilità. Prima edizione. Le 6, 45 minuti e 42 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Parliamo di cinema adesso e del film dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani, che sabato, come sapete, ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino. Cesare deve morire, la rivisitazione del Giulio Cesare di Shakespeare. Gli attori sono detenuti del carcere romano di Rebibbia e fanno teatro da oltre 10 anni sotto il coordinamento del regista Fabio Cavalli. Alcuni sono condannati, tra l'altro, all'ergastolo. Sassà Striano, che nel film ha la parte di Bruto, ora è libero, ma è stato 8 anni anni in cella a Rebibbia per detenzione di armi, estorsione e associazione a delinquere. Sentiamo come racconta la sua esperienza, la sua storia a Paolo Panceri. Questa esperienza in carcere mi ha segnato particolarmente per il fatto che io lì dentro ci sono stato rinchiuso per anni e quindi era un ritorno, quindi ho dovuto un attimino prima addominare tutte queste emozioni tra gratificazioni di entrare dalla porta grande, tra il fatto di far vedere ai miei compagni che comunque io fuori ce la stavo facendo e quindi entravo lì dentro come una luce di speranza per loro, a dire ma allora questa roba funziona. Dopo la prima settimana che sono riuscito a fare tutto questo passaggio, anche perché avevo di fronte due maestri come Paolo e Vittorio, ho iniziato a pensare al mio bruto e al mio personaggio. Non è stato per niente facile, anche perché c'era Shakespeare, c'erano i fratelli italiani, c'era Fabio Cavalli, ognuno mi chiedeva delle cose specifiche, poi c'erano quegli uomini che io avevo lasciato lì dentro e il testo che sembrava veramente che eravamo ritornati nella nostra Napoli o nella Sicilia a discutere di cose, di crimini organizzati, perché il Giulio Cesare di Shakespeare sembra un po' quello messo nelle nostre bocche, adattato lì in un luogo così. Quindi è stato tutto molto molto molto complicato, però sapendo che si recitava, sapendo che era tutta finzione, sapendo che stavamo riuscendo fuori e trovando noi un modo per chiedere perdono per i nostri errori e per sentirci degli uomini migliori, questo mi dava una gran forza. Alla fine è riuscito tutto alla grande, ci abbiamo messo molto molto cuore in questo progetto e siamo stati premiati, io l'ho vissuta così. Com'è stato lavorare lei libero con i suoi compagni ancora carcerati? È stata dura perché non sai nemmeno quello che gli devi dire, è come andare a un funerale sinceramente, perché tu sai che loro rimangono chiusi lì dentro e sai bene che comunque su di te c'è, anche se non lo manifestano, c'è quella sottile forma di invidia e di dire questo stasera se ne va a casa, questo esce fuori e quindi ero molto molto chiuso, nel senso che non traspariva nessuna mia felicità, anche se poi ti devo dire la verità, dopo la prima settimana ho iniziato a accusare il colpo, nel senso che mi sentivo veramente carcerato di nuovo, perché le giornate iniziavano alle 7 di mattina e si usciva alle 10 di sera da là dentro e per me che ci sono stato rinchiuso 7-8 anni era insopportabile. Ogni mattina io veramente trovavo la forza in Gesù Cristo per dire fammi entrare qui dentro perché sto facendo qualcosa veramente di importante, se no non ci sarei mai entrato. Da qui nasce la magia, è veramente l'essenza del teatro, che più che vanità e che divismo è terapia pura, è farti stare bene. Poi arriva a Berlino, arrivano gli Oscar, arriva quello che arriva e è tutto ben accetto, però si lavora per ben altro, non si lavora per questa gloria. Si lavora perché il teatro mi fa stare bene, perché io amo tanto questo lavoro. Ecco, che cosa può dire a chi si è trovato e chi si trova nelle sue vecchie condizioni per poter fare uno scatto di qualità e potersi da un certo punto di vista redimere? Non mi è successo tutto da solo, se no sarei presuntuoso. Il primo passaggio, ti trovi lì dentro, è perché significa che qualcosa non è andato bene e che hai sbagliato. Io sono partito da quel presupposto, io ho perso i miei genitori mentre ero detenuto e ho promesso a loro che non mi sarei mai più permesso né di farmi del male né di offendere nessuna persona con le mie azioni. Poi il teatro mi ha fatto capire che tutto quello che io facevo era già stato fatto e rifatto migliaia di volte, quindi io mi sento un uomo miracolato, veramente, mi batte il cuore, sono felicissimo, sono il protagonista di un film che ha vinto dopo 21 anni l'Orso d'Oro a Berlino e mi sento veramente fiero di me stesso. Ai ragazzi lì dentro gli dico di non mollare, di non pensare solo al teatro, perché la sfortuna e la fortuna di trovarsi in un carcere è quella di avere il tempo di poter fare qualcosa di importante veramente. Ed è veramente tutto per questa, dopo questa bella intervista del nostro Paolo Panceri, veramente tutto per questa puntata di Prima Edizione. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia e una buona giornata.